in primo piano. Bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour. Chaque matin, réveille-moi, embrasse-moi. Buongiorno, buongiorno per questa rassegna stampa. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Buongiorno anche dalla regia, da Valerio Rocchetti, che ci seleziona ogni mattina un buongiorno in una lingua diversa. E buongiorno anche al nostro ospite di questa mattina, Fabio Martini della Stampa. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo con notizie poco purtroppo positive per il nostro paese. Italia crescita zero, stop sulle pensioni, rivolta in Parlamento, tensione Premier, Tesoro, Renzi, troveremo i fondi, fronda nel PD, boccia, il governo risolva il problema, questo è il titolo di Repubblica. Sulle pensioni si cambia ancora, Corriere della Sera, retromarcia su 4.000 insegnanti, salta il tetto dei 68 anni, Renzi, faremo un altro intervento, giustizia più ampia alla responsabilità civile delle toghe. Sole 24 ore, pensione dietro front sulle deroghe, tensioni Renzi ragioneria, il Premier su quota 96, faremo un intervento più ampio, dietro front sulle pensioni anche per il giorno. E poi questi sono praticamente i maggiori quotidiani. Vediamo invece che il giornale si concentra più sulla stangata sulla casa, con il nuovo catasto, stangata sulla casa, e c'è un articolo in cui si illustra chi rischia di più. Crescita debole, conti in bilico, pronti nuovi tagli ai ministeri, il Messaggero. Insomma, abbiamo visto una giornata poco edificante, perché c'è stato questo scontro tra governo e ragioneria, dietro fronte del governo sulle pensioni di 4.000 insegnanti che da settembre avrebbero dovuto smettere di lavorare. Il provvedimento è inserito nella riforma della pubblica amministrazione per sanare un errore precedente, è stato depennato in assenza delle relative coperture finanziarie. In particolare, avrebbero dovuto andare in pensione insegnanti, primari e professori universitari che intendevano ritirarsi dopo 42 anni di contributi, anche senza aver raggiunto i 62 anni. Il provvedimento di pensionamento riguardava anche i parenti delle vittime e superstiti delle stragi di terrorismo. La decisione del governo, tesa ad evitare uno scontro con la ragioneria del Tesoro, ha innescato una serie di polemiche e una frattura all'interno dello stesso PD. Tanto che in serata il Premier Matteo Renzi è intervenuto ventilando una soluzione ad hoc per fine agosto. Chiediamo subito a Fabio Martini: questo decreto sulle PA è stato un dramma, il dramma del governo Renzi? È stato rivoltato come un calzino al Quirinale, e adesso c'è di nuovo questa impasse, Fabio. Beh sì, dramma nel senso che è l'errore più marchiano, che è maturato peraltro in Parlamento con il parere contrario del governo, ma comunque si sa come va a finire in questi casi, la colpa è sempre del governo. Perché comunque c'è una costante negli ultimi tempi, questa mancanza di coperture e l'impegno a pagare una spesa che si sta per fare con la spending review ormai non funziona più, è un'usanza che questo governo ha adottato e che a questo punto all'interno stesso dell'amministrazione ha provocato una reazione, in questo caso della Ragioneria Generale dello Stato, e però questo è un problema molto serio, non è una cosa qualunque. Quando tu, come dire, ti impegni, sono come delle cambiali, pagherò, ma non funziona così. Ecco, sì, molto spesso le critiche proprio a Matteo Renzi sono proprio queste dal punto di vista di politica economica: troppi annunci e poche coperture, e questo è venuto fuori con questo decreto. Esattamente, nel senso che è indubitabile che questo Presidente del Consiglio abbia rimesso in moto, in movimento tante cose in tanti campi, in alcuni casi con dei provvedimenti ad hoc, nella gran parte dei casi proprio per, come dire, dare questo senso di dinamismo, con degli annunci e degli impegni ad intervenire successivamente. Però quando la promessa appunto assume la forma di una cambiale in bianco, il meccanismo, come dire, si inceppa e si ribella, e in questo caso anche con degli effetti sulla credibilità del governo che Renzi dovrà misurare. Può valere poco, ma segnalo che tutti noi su diversi, o sui siti o su televisioni satellitari, abbiamo la possibilità di fare questi sondaggi al volo online, che hanno un valore statistico pari a zero, però restituiscono, come dire, un'impressione. Renzi finora li ha sempre superati tutti con grandi percentuali. Da due giorni, se provate a fare questo test, il risultato per il governo è meno gratificante. Insomma, il governo perde un po' di consensi. Intanto ricordiamo ai nostri radioascoltatori il numero dei nostri sms: 349-238-6666, per far sentire la vostra voce. C'è un radioascoltatore che dice: siamo in mano a mercanti di pistacchi. Intanto questa decisione, questa tensione della Ragioneria del Tesoro non è vista bene dal PD. Allora, Alessandra Schepisi ha intervistato Giorgio Pagliari, relatore del provvedimento delle PA in Commissione Affari Costituzionali. Sentiamo. Mi si deve spiegare che è un decreto che è rimasto un mese alla Camera, nel quale la discussione su questa partita, su queste norme che sono soppresse, non è stata di poche ore, esce dalla Camera con l'approvazione, viene al Senato e al Senato la ragioneria dice che non c'è la copertura. Se non c'è la copertura lo doveva dire alla Camera, visto che la prima lettura era lì, e poi lo doveva ribadire al Senato. Alla fine aveva ragione Carlo Cottarelli, che diceva le spese non sono coperte, c'è stata tutta questa polemica con il governo. A me quel profilo non interessa. L'ho letto, è un problema tra Cottarelli e il governo. Io dico, come parlamentare, come senatore, che non è ammissibile che alla Camera venga approvata una norma senza che la ragioneria eccepisca nulla sulla copertura, e poi venga al Senato e la ragioneria faccia l'eccezione a norma già approvata in un ramo del Parlamento senza che ci siano modifiche da parte del Senato, dicendo che non è coperta. È un atteggiamento inaccettabile. Insomma, è un problema tra Cottarelli e il governo, Fabio Martini della Stampa, ma poi c'è stata anche questa impasse per Matteo Renzi, insomma, questo commissario che doveva risolvere tutti i problemi italiani poi è stato messo all'angolo, anche se Renzi dice la spending review, quindi il controllo sui conti della spesa pubblica, Italia la spesa pubblica, si faranno ugualmente. Sì, Cottarelli era stato nominato da Letta. Il Presidente del Consiglio, tra i tanti pregi, anche questo aspetto per il quale, insomma, è sempre diffidente verso tutto quello che è fatto dai predecessori, e quindi va tutto o quasi tutto rottamato. Cottarelli è un tecnico di fama internazionale, non è detto che avesse fatto tutto in modo perfetto, sicuramente il suo imminente auto licenziamento non sarà un bel biglietto da visita in certi ambienti internazionali. Credo che poi la soluzione sarà diversa da quella che si legge in questi giorni sui giornali, nel senso che non sarà nominato un nuovo commissario, ma invece sarà delegato ai ministeri, diciamo, l'impegno di tagliare tutte le spese necessarie, non quelle vive, ma insomma quelle che costituiscono sprechi, e quindi questa è una soluzione peraltro anche più razionale. Ecco, ma tu pensi che ci riusciranno? Perché io mi ricordo sempre questi consigli dei ministri, queste finanziarie, quando si facevano le finanziarie, in cui tutti i ministri dovevano poi combattere col ministro dell'economia, che era quello che doveva tagliare, e tutti quanti erano arroccati nel loro dicastero a non far tagliare le spese, no, del loro dicastero. Quindi è molto difficile che poi ritorniamo, e poi parleremo del Senato, è molto difficile che lo stesso ministro decida di tagliare il suo ministero, o no? Insomma, è la storia del tacchino che si trasforma in cappone. certo, no, è esattamente così, ed è così che nacquero i famosi tagli lineari, e cioè il Ministero dell'Economia che decide a un certo punto che in tutti i ministeri si taglia l'8% delle spese, qualsiasi esse siano, quindi non tagli selettivi. Quel tipo di scelta non fu, diciamo, all'inizio così, fu l'effetto esattamente di quel processo difficile di autotaglio che indicavi tu, è proprio così. Però con Renzi bisogna starci attenti, perché poi lui mette queste tagliole e chi non le rispetta poi magari viene anche licenziato. Quindi no, alla fine potrebbe essere questa la soluzione. Poi chi non realizza il taglio va con un taglio che è prefissato, potrebbe essere questa la soluzione. Allora, segnalo anche un editoriale di Maurizio Ferrara, un'idea vecchia, di vecchiaia ormai superata, sul Corriere della Sera: mentre in Parlamento si consuma l'ennesimo tiro alla fune sulle pensioni, può essere utile proporre qualche riflessione sui presupposti di quell'idea di vecchiaia che abbiamo ereditato dal Novecento e ancora oggi è largamente radicata. Pensione deriva dal verbo latino pendere e praticamente in epoca tardo romana assunse il significato di pagamento a cadenza regolare. Tale periodo iniziava intorno a 65-70 anni, era breve e riservato a una minoranza di persone che riusciva a sopravvivere fino a quell'età. Ma adesso tutto è cambiato, perché negli anni 50 in Italia la speranza di vita era pari a 67 anni d'età, l'età effettiva di uscita dal lavoro era pari a 66 per i maschi. Nel 2010 la speranza di vita era salita oltre 80 anni, l'età effettiva di uscita era scesa a 58 anni, quindi per Ferrara non è più sostenibile, e dobbiamo praticamente, secondo lui, avviare una soluzione, perché i paesi nordici hanno già avviato sperimentazioni in direzione diversa, mentre l'Italia si trova in una situazione diversa e non possiamo certo permetterci fughe in avanti. È però utile iniziare a riflettere e a discutere di strategie. Insomma, questo anche che voleva un po' il ministro Mariano Navadia era di pensionare magari i dirigenti, un dirigente per assumere due giovani, cioè per dare uno stimolo all'occupazione giovanile. Purtroppo però questo qui non è possibile. No, ci sono appunto due principi molto importanti, come dicevi tu, in contrasto, cioè l'esigenza di favorire anche per via legislativa un ricambio generazionale e invece appunto questa maggiore aspettativa di vita, ma anche il fatto che la permanenza appunto in attività alimenta i fondi previdenziali che altrimenti sono sempre più sguarniti. Sono principi da equilibrare, da calibrare bene, e in questo caso però occorre ripeterlo: per mandare in pensione anticipata insegnanti, primari e docenti universitari mancavano le coperture, non molti soldi, però non è che uno può farlo d'ufficio, tanto più, anche questo occorre dirlo, che per l'anno in corso il governo aveva immaginato, per coprire gli 80 euro e altre spese, di procedere a una spending review di 4 miliardi e mezzo, e per ora di quei tagli per 4 miliardi e mezzo non c'è traccia. Allora, segnalo sempre su Repubblica un articolo a pagina 4 sulla crisi: torna allo spettro recessione, crescita zero nelle stime Istat, sul deficit si riapre il fronte europeo, domani i numeri sul PIL 2014, si prevede tra meno 0,1 e più 0,1%, in pratica nulla, sempre più lontano il pareggio strutturale chiesto da Bruxelles. L'Italia di nuovo in recessione, ci chiede Valentina Conte. Possibile, lo sapremo domani alle 11, quando l'Istat comunicherà la variazione del PIL nel secondo trimestre dell'anno. Se dopo lo 0,1% dei primi tre mesi, arriverà un altro meno 0,1%, sarà recessione tecnica. Due segnali negativi in due periodi consecutivi, non si scappa, il governo lo teme. Andiamo invece a parlare di quello che sembra succedere al Senato, cioè che potrebbe essere invece un aspetto positivo per il premier Matteo Renzi. La riforma allunga il passo, tensioni sull'immunità, ma il Senato vota a favore, passa l'addio agli incarichi a vita e all'indennità, il Movimento 5 Stelle fuori dall'aula, si può chiudere il 7. Fabio, insomma, ce la farà a avere questo primo sì, la riforma del Senato non elettivo, un Senato a quota 100? Sì, nel senso che appunto con la fine dell'ostruzionismo, l'uscita dall'aula di alcuni gruppi per protesta, potrebbe esserci la chiusura della prima lettura, intendiamoci, potrebbero seguire altre quattro, entro addirittura il 7, quindi con un giorno di anticipo rispetto alle previsioni, ma insomma non è quello il problema, se anche si chiude l'8 o il 9 mattina non è quello il punto, è che effettivamente, come dicevi tu qualche minuto fa in relazione ai tacchini, effettivamente questa riforma era stata guardata con grande scetticismo da tutti, osservatori e anche protagonisti, e invece con tenacia non trascurabile il capo del governo è riuscito a farcela. Adesso naturalmente occorre aspettare e ricordare che comunque prima dell'approvazione finale passeranno molti mesi, se approvazione finale ci sarà. In primo piano. In attesa della relatrice, il gruppo Movimento 5 Stelle conferma che questa porcata di riforma non merita la partecipazione. Il linguaggio non è quello adatto, poi la vostra valutazione era nota. Il linguaggio, come è stato fatto presente dalla Presidenza, ha avuto la parola e quindi... Allora, abbiamo sentito il senatore Petruccelli del Movimento 5 Stelle e Maurizio Gasparri, che insomma non è uno molto lieve, che però in quel momento era presidente d'aula, rimproverarlo sulla riforma costituzionale del Senato. C'è un'intervista poi di Augusto Minzolini, il dissidente di Forza Italia, al Corriere della Sera, e praticamente è l'esperienza sul campo, io costituzionalista. Beh, insomma, Augusto Minzolini, ricordiamo, è stato anche un tuo collega alla stampa, anzi è stato la persona che ha svelato il patto della crostata, no Fabio? Allora, rimane però questo aspetto dell'immunità, anche se l'indennità è abolita, insomma, da questo purtroppo non si scappa però in questa riforma, Fabio. Non si scappa sul fatto che c'è un'immunità così come l'hanno i deputati, ci sarà una differenza con i sindaci e con i consiglieri regionali eletti contestualmente ai futuri senatori, però effettivamente, insomma, su questo è una questione controversa, ognuno può pensarla come crede, però insomma che ci sia un'equivalenza tra i due tipi di parlamentari mi sembra anche ragionevole. Scompare l'indennità per i senatori e qualcuno può anche avere il sospetto che tutta questa riforma sia stata immaginata da Renzi unicamente per eliminare l'indennità ai vecchi senatori. Insomma, è un sospetto legittimo, curioso, perché insomma, se tutto questo è stato fatto soltanto per questo motivo, oltre che per accelerare l'iter legislativo, insomma, possiamo dire che è una norma figlia dello spirito del tempo, è un tempo nel quale non si sopportano più gli sprechi enormi e criminali che la classe politica ha fatto nei decenni scorsi, su questo non ci sono dubbi. Il risultato è che appunto si abolisce il Senato solo per abolire l'indennità. Ma anche c'è il fatto che, per esempio, i senatori a vita non saranno più a vita, dureranno solo 7 anni, che secondo me è una norma sacrosanta. E poi però ci sono i nostri ascoltatori, c'è un radioascoltatore che dice: ma non vi rendete conto che Renzi è pericoloso? Ditelo per favore, lo diciamo. Poi ci sono praticamente anche delle critiche a Matteo Renzi. Intanto leggiamo il Fatto Quotidiano, fatto che sappiamo un giornale che non risparmia assolutamente critiche, e soprattutto quello che, di cui si parla, il terzo argomento di politica, è la legge del Nazareno: castigare i magistrati e salvare l'immunità. Se il patto è scritto negli atti parlamentari, come dice praticamente il premier Matteo Renzi, allora il Movimento 5 Stelle dice: leggetelo in aula. Intanto il Senato si tiene il salvacondotto e arrivano le linee guida sulla responsabilità civile dei magistrati, rivalsa fino a metà dello stipendio. L'Associazione Nazionale dei Magistrati dice: scelta inaccettabile. Segnalo un editoriale di Marco Travaglio su Matteo Renzi, molto critico, perché soprattutto critica l'intervista di ieri a Repubblica. Deve capire che il bello è che il bullo si dipinge come un premier assediato solo contro tutti, mentre è il più omaggiato e leccato dai poteri forti e dalla stampa al seguito che si sia mai visto. Nemmeno il suo socio Berlusconi aveva goduto di così consensi oceanici, dice Travaglio. La responsabilità dell'intelligenza nella crisi italiana, le responsabilità, scusate, esistono e sono gravi, ma esattamente opposte a quelle indicate da Renzi. Per Travaglio, il guaio in Italia non è l'eccesso, ma è il deficit di controcultura rispetto al potere. E quindi il fatto che non lo capisca o finga di non capirlo è allarmante, perché la democrazia è anzitutto rispetto e tutela delle minoranze. Insomma, beh, questo chiaramente è Travaglio che pungola un pochino il premier. Il Cavaliere da oggi a Roma, invece, il giornale, quindi l'altra parte, si tratta sul nodo preferenze, lungo confronto tra gli ambasciatori Verdini e Lotti, incaricati di trovare la quadra. Sul tavolo anche le soglie di sbarramento e il premier di maggioranza. Abbiamo quindi cambiato argomento, ricordiamo: un conto è la riforma del Senato, l'altra cosa è la riforma della legge elettorale, è una riforma ordinaria, e quindi si parla dell'Italicum. Renzi Berlusconi, La Stampa, quindi il tuo giornale. Terzo incontro per chiudere l'Italicum a settembre, l'ex Cavaliere in simbiosi col premier e sopporta poco le uscite di Brunetta, che è un po' definito un falco. Ricordiamo che Brunetta ha criticato la politica economica del governo. Allora Fabio, insomma, questo inciucio, come accusa il Movimento 5 Stelle, c'è, o comunque c'è un patto, questo è sicuro, che va avanti ed esclude di fatto però il Movimento 5 Stelle. Beh, che il patto ci sia, sicuramente sì. Il Movimento 5 Stelle, insomma, è stato chiamato in causa più volte e si è alla fine autoescluso. Adesso restiamo sempre ai fatti, perché con la stessa serenità, oggettività con cui abbiamo analizzato il comportamento del governo su i pensionamenti anticipati, al tempo stesso, ecco, tu hai letto il Fatto Quotidiano, questa denuncia rispetto alle linee guida, non ancora a una legge, sulla responsabilità civile dei magistrati. E lì occorre dire che quelle linee guida espresse ieri corrispondono a una normativa europea consolidata. In altre parole, i magistrati, non direttamente, ma perché il ricorso verrebbe fatto allo Stato, vengono chiamati in causa in caso di dolo evidente o inescusabile negligenza, quindi casi molto gravi, e poiché i magistrati si occupano di questioni molto delicate come la libertà delle persone, se si ravvisasse un'inescusabile negligenza, attualmente non accade nulla, e invece potrebbero essere chiamati a risponderne. Mi sembra una norma molto civile quella che sta preparando il governo. Ecco, un radioascoltatore ci dice, Franco da Novara, perché Renzi vuole chiudere le Camere di Commercio, che sono l'unico ente pubblico italiano che non ha un bilancio in rosso, anzi portano soldi allo Stato. Ecco, notiamo che i nostri radioascoltatori sono molto attenti ai conti pubblici, Fabio, quindi anche Matteo Renzi si deve rendere conto che gli italiani non è che si possono prendere in giro, cioè le cose vanno fatte con calma alle volte. La troppa fretta mi dà l'idea che stia portando il governo ad un impasse in cui non si capisce bene quello che è contenuto nei decreti o nei provvedimenti. E certamente, no, è così. Naturalmente la fretta sconta, questa fretta che a noi tutti appare eccessiva, sconta la incredibile lentezza degli anni precedenti, no? Quando tutte le decisioni venivano rinviate. In più c'è un problema a questo punto che comincia ad affiorare, la difficoltà a scontentare fette di opinione pubblica rilevanti, perché alcune decisioni molto coraggiose sono state assunte, penso al tetto agli stipendi per chi guadagna nello Stato più di 240 milioni. Naturalmente, se poi uno ci riflette, sono misure importanti, simboliche, che riguardano una fetta ridotta di popolazione e che accontentano invece fette molto più larghe, e probabilmente è arrivato il momento di scontentare qualcuno, anche se questo ha un costo in termini di consenso. Segnalo invece poi su Italia Oggi, non me ne vogliano gli elettori del Movimento 5 Stelle, un articolo molto critico sul Movimento, una linea politica tira e molla, l'agitazione confusa dà solo dei risultati inconsistenti, sarà per l'inesperienza, sarà perché sono eterodiretti, non si capisce cosa vogliano fare i grillini, l'articolo a firma di Cesare Maffi. Io continuo a ribadire, però importante in questa fase della nostra vita politica avere un Movimento 5 Stelle così attivo e che va a spulciare tutti i provvedimenti. Ho la vaga sensazione che sia stato però un passo indietro, una rinuncia, quella di abbandonare l'aula durante i lavori per il Senato non elettivo. Ricordiamo che i grillini sono per il bicameralismo, per una riduzione dei parlamentari sia di Camera che di Senato. Però abbandonare l'aula poi alla fine è sempre una resa, no Fabio? No, può essere un atto fortemente simbolico di fronte ad un provvedimento che si ritiene profondamente ingiusto, profondamente sbagliato, incostituzionale. Ora, questa riforma del Senato, se poi la vedremo alla fine, fra qualche giorno, insomma, non ha questi profili autoritari, oggettivamente parlando, ci mancherebbe, poi ognuno ha la sua opinione, ci mancherebbe altro, e quindi esattamente lasciare l'aula è arrendersi dal punto di vista della modifica della legge, peraltro impossibile perché la maggioranza ha fatto testuggine, ma è rendere come dire simbolico un atto che probabilmente il provvedimento non merita, perché non stiamo parlando di un provvedimento liberticida o che stravolge la Costituzione, semplicemente rende omogenea l'Italia ad altri paesi in relazione al fatto che c'è una Camera che si occupa delle questioni principali della legge di bilancio e una seconda che in gran parte dei paesi europei non esiste oppure svolge funzioni non concorrenti. E invece andiamo al giornale, il nuovo agguato sulla casa, basta tasse, la riforma del catasto nasconde una stangata bis, allarme dei proprietari, pensioni di insegnanti e medici, altra retromarcia, quello lì l'abbiamo visto, infatti scusate, si sente lo sfogliare della carta perché noi siamo old model e ci piace leggere i giornali proprio sulla carta, la riforma del catasto è appena partita e già fa paura, in un momento in cui la casa è già martellata dal fisco, scrive Laura Verlicchi. e i proprietari temono una nuova stangata e il rischio è tutt'altro che remoto, almeno in alcune città, ricordano quello che è stata la classifica elaborata dal Sole 24 Ore, dal nostro giornale che è stato pubblicato ieri, sono quelle i cui valori catastali basati ormai su estimi superati sono più lontani da quelli del mercato, fino ad arrivare nel caso di Pistoia a un divario del 300%, un gap che la riforma dovrebbe ridurre se non annullare. Questi, ricordiamo, sono stati i dati pubblicati ieri sul Sole 24 Ore, ripresi oggi dal giornale. Insomma, Fabio, quello si accusa il governo Renzi di aver messo questi, di aver tolto questi 80 euro in busta paga per aver poi messo più tasse indirette e comunque c'è questo allarme sulla TASI. Ricordiamo che molti comuni non sono ancora in ordine per quanto riguarda quello che sarà la nuova tassa, sia la TASI sia la TARI sia tutto lo IUC, tutto questo pacchetto sulla casa rischia di essere molto molto più gravoso dell'IMU e dell'ICI precedenti. Beh, non vedremo, perché ancora c'è un piccolo mistero, però insomma si tratta comunque di tasse imposte che si pagano ovunque, che in alcuni casi, come appunto gli estimi, risalgono a molti decenni fa, e quindi questa riforma che è stata impostata da Monti, che è l'autore di alcune delle riforme strutturali, le uniche che sono state fatte in questo paese, poi piacciono o meno, e quindi compresa questa, fu allora che se ne iniziò a parlare e ora arriva, diciamo, a compimento, però occorre poi mettersi d'accordo, purtroppo chi è piccolo proprietario soffre, insomma la tassazione sui beni immobili è in linea con quello che accade in tutti i paesi avanzati, e purtroppo occorre farsene una ragione. Il problema è liberare risorse appunto per chi lavora e chi produce, e il governo ha deciso di liberare risorse soltanto per chi lavora con un basso reddito. Esattamente. E in questa ultima frazione di rassegna stampa parliamo del Medio Oriente, parliamo di Gaza. Ovviamente ci sono opinioni diversissime, vi segnalo quelle due all'opposto. Il primo è il Manifesto: se questa è una tregua, Renzi d'Egitto. Tommaso Di Francesco scrive a proposito di Renzi: non c'è nessun soldato rapito, aveva ragione Hamas, che altrimenti l'avrebbe rivendicato, a dire che poteva essere morto sotto un raid israeliano per distruggere il tunnel. Ora Israele lo dà ufficialmente per morto e ne celebra i funerali. Quel rapimento è servito solo a nascondere l'efferratezza sanguinosa delle nuove stragi, come la distruzione dell'ospedale di Rafah, e soprattutto Obama per rilanciare l'incredibile equidistanza, e al premier emergente d'Europa e d'Italia Matteo Renzi a tacere sul sangue versato dei palestinesi e sui crimini del governo Netanyahu. Ricordiamo, stiamo leggendo il Manifesto. Così è arrivata al Cairo, solo preoccupato del precipitare della Libia nel baratro per le sorti del nostro approvvigionamento energetico, gridando a viva voce chiediamo la liberazione del soldato rapito. Questo Tommaso Di Francesco. Da segnalare invece il controarticolo dell'Elefantino sul Foglio: difendere Israele dall'Occidente, non c'è solo l'antisemitismo islamico, scrive Giuliano Ferrara, c'è anche quello umanitario e pacifista. Il mondo è Juden Müde, è stanco degli ebrei, lo ha scritto il titolare di una delle più intelligenti e penetranti agenzie del paese, George Steiner, e questo è il vero elemento tragico, scrive Ferrara. Ricordiamo, stiamo parlando del Foglio. che spiega la tragedia ulteriore della guerra inevitabile, delle vittime civili, dei bambini, fatti aberranti che vengono ricevuti spesso da media opinioniste, spesso in modo subdolo o trasversale, come una responsabilità del carattere aggressivo e militarizzato di Israele. Questa stanchezza da psicologia del profondo spiega il progressivo isolamento ideologico e sentimentale di Israele e degli ebrei nell'opinione di massa in Europa, con forte pescaggio di acque limacciose dell'antisemitismo, nemmeno più travestito, almeno nei casi peggiori o più trasparenti, in antisionismo. Non conta che Israele con Sharon abbia unilateralmente lasciato libero il popolo palestinese di Gaza di fare il suo comodo, ritirando soldati, non importa che in seguito siano state distrutte le frattorie e bruciate le sinagoghe. Insomma, questo è il parere ovviamente all'opposto di Giuliano Ferrara. Su Gaza segnalerei intanto l'intervista a Boyman su Repubblica, l'amarezza dell'intellettuale polacco di origine ebraica sfuggito all'Olocausto. Non risparmia critiche ad Hamas e a Netanyahu, pensano alla vendetta, no alla coabitazione. Purtroppo sta accadendo ciò che era ampiamente previsto. Segnalo anche invece una intervista del Fatto Quotidiano a Daniel Gold, che è l'inventore, che poi è diventato un eroe in Israele, dell'Iron Dome, la cupola di ferro, il sistema antirazzo in funzione dal 2011 che lo ha reso pari a una pop star. Chi lo incontra in strada gli si avvicina entusiasta, due ragazze che lo riconoscono da lontano mentre lui si sottopone all'intervista gli gridano, siamo a Gerusalemme, we love you, e gli mandano baci. Ci spiega poi come ha avuto l'idea dell'Iron Dome. Questo praticamente sistema che ha fatto sì che Israele possa intercettare al 95% i razzi da Gaza. Intervista anche Adamo Soz su Corriere della Sera. Il pessimismo di Adamo Soz, ricordiamo che Soz è uno dei principali scrittori israeliani, più palestinesi uccidiamo e più vincerà Hamas. Lo scrittore Sharon si è ritirato dalla striscia, ma ci hanno sommerso di razzi. Chi crederà più alla pace? Altro aspetto hollywoodiano invece è quello di John Voight, che il papà di Angelina Jolie, nonché attore americano, protagonista di Tornando a casa, per cui ha ricevuto l'Oscar, critica la presa di posizione di Penelope Cruz e Javier Bardem, i due attori spagnoli che hanno definito genocidio l'operazione nella striscia di Gaza, e praticamente manda una lettera in difesa di Israele proprio su questa presa di posizione. Ma attenzione, dice, non voglio che venga strumentalizzato contro mia figlia Angelina Jolie, appunto, che lotta per la pace nel mondo. Avvenire, il quotidiano dei Vescovi apre con l'Iraq, l'ISIS non si ferma, 200.000 in fuga. Pistelli dice aiutare i cristiani a restare nella loro terra. Dopo l'annessione della città di Sinar al califfato di al-Baghdadi, il governo iracheno dà il via libera ai raid a sostegno dei curdi che annunciano un'imminente controffensiva. Nel mirino dei fondamentalisti anche le minoranze yazidi e turcomani, l'ONU lancia l'allarme. In Kurdistan si rischia una nuova tragedia umanitaria, ripreso dai curdi un valico con la Siria mentre si combatte per il terzo giorno consecutivo in Libano. Segnalo anche un articolo di Libero a pagina 12 sul discorso dell'imam di San Donà di Piave, un sermone contro gli ebrei, Allah uccidili tutti, Italia disorientata, gli ebrei devono morire tutti fino all'ultimo senza risparmiare uno solo di loro, questo renderebbe felici i musulmani, parola dell'imam di San Donà di Piave che pronunciate durante la kutba, il sermone del venerdì, davanti a qualche centinaio di fedeli, tra i quali diversi bambini. Nessuno dei presenti si indigna. Io direi che questo imam di San Donà di Piave dovrebbe essere adesso comunque messo a tacere dalle nostre forze dell'ordine, almeno questa è la mia opinione. Dunque, un altro invece editoriale, questa volta su Repubblica, è su Putin: nazionalismo e censura, così il putinismo si diffonde in Europa, di Zakaria, qui praticamente si traccia un profilo del nuovo zar Vladimir Putin. Ma adesso, per chiudere, vogliamo chiudere con delle notizie e soprattutto con una notizia che riguarda una donna italiana e una grande campionessa. Vira ai 150 metri, Femke Heemskerk con il fiato di Federica Pellegrini sul collo. È una Pellegrini in rimonta pazzesca sulla Heemskerk, ora la va ad affiancare la Heemskerk, che cala un po' in questo finale. Bisogna però difendersi anche dagli attacchi lanciati da Camilla Muffai in corsia 6. La Heemskerk che crolla, che non ne può più, ed una Federica Pellegrini stratosferica che lancia il finale verso la medaglia d'oro, verso la leggenda Federica Pellegrini, che vince un oro spaventoso, 1:55:58 dalla storia. Che belle emozioni. Allora, oggi la campionessa compie 26 anni e praticamente rilascia una intervista alla Gazzetta dello Sport, pagina 31, e da mascotte a star, ma ho sempre fame, e un compleanno prima degli europei di Berlino, come quel primo compleanno nazionale prima di Atene 2004, in cui Federica Pellegrini entrò da mascotte, uscì d'argento olimpico nei 200 stile libero, l'azzurra più precoce sul podio dei giochi e nel giorno della prima e unica medaglia a 5 cerchi di una staffetta tricolore. La Pellegrini nacque il 5 agosto, si consacrò Fede d'Italia il 17 agosto. Beh, insomma, un leone, quindi una donna abituata a lottare. Ci sarà un film su di lei, lei dice che ne sarebbe onorata. Angelina Jolie ha fatto una sulla storia olimpica di Luis Zamperini, mi piacerebbe scegliere io l'attrice che interpreta Federica. E quindi subito si parla anche un po' di gossip: la Jolie e Brad Pitt restano la coppia preferita, il gossip non molla neanche lei e Magnini. Siamo usciti da una gioielleria di Milano, dice Federica Pellegrini, hanno scritto che avrebbero comprato gli anelli di matrimonio, ci sono le agenzie di scommesse inglesi che parlano della data, ma io e Filippo nel 2015 siamo impegnati sui mondiali di Kazan, non avremo nemmeno il tempo per i preparativi, le nozze sono impegnative da preparare. Insomma, ancora no, un pochino segnalo questa intervista e vi saluto, ringrazio Valerio Rocchetti in regia, linea al GR e poi ad Irene Zerbini. Noi ci risentiamo domani.